Silenzio, per favore! La manette che va giù è morso, s'il vous plaît, hein? Silence! Silence! Entre mains, il s'arrête, joue pas! Silenzio, manette replata! Grazie, manita! Manita! Manita! Manita!